Gli speciali di Radio 24. Ladies and gentlemen, I have to say that when I woke up this morning, I did not expect it to be such a good day. It was with great emotion that I received the news of the award of the Nobel Peace Prize to the European Union. Eccolo qua il presidente della Commissione europea Barroso. Primo pomeriggio, commenta dunque il conferimento del premio Nobel per la pace all'Unione Europea. 16:45 minuti, un saluto da Gigi Donelli. Dunque, una prima volta per l'Unione Europea che arriva proprio nel tempo della grande crisi. 500 milioni di cittadini, tanti siamo, 27 stati, e ora un premio Nobel. Il presidente dunque Barroso è il 12° presidente della Commissione Europea. Chissà che, come dire, può essere anche un gioco fatto rapidamente. Chissà quanti presidenti ci ricordiamo, se leviamo magari Prodi e Delorme, il resto effettivamente è nebbia per la maggior parte di noi. Nebbia che in fondo racconta anche la costruzione di questo processo formidabile. Formidabile lo è e senza alcun dubbio lo è dal punto di vista storico, e come Barroso e tutti i maggiori leader hanno commentato in queste ore, è formidabile il fatto che il continente all'interno dei confini della CE prima, dell'Unione poi, da 60 anni non marciano gli eserciti. È lo stesso continente che nei 60 anni precedenti, quindi quelli dalla fine dell'Ottocento a metà degli anni del Novecento, del secolo dei totalitarismi, ha combattuto due guerre mondiali, le guerre balcaniche, insomma un'Europa dilaniata. Certo, non dimentichiamo che al di fuori di quello spazio i conflitti ci sono stati, gli anni 90, la Bosnia, la dissoluzione della Jugoslavia, ma questo era ed è all'esterno di una struttura che è nata da un grande sogno dei padri fondatori. Erano in sei le nazioni che hanno costituito il nucleo intorno al grande accordo franco-tedesco, e oggi sono 27. Bene, allora io direi di sentire subito un primo commento, una riflessione che ha fatto poco fa quello che è stato anche il precedente presidente della Commissione, l'uomo della moneta unica da un lato, ma anche dell'allargamento, Romano Prodi, con cui abbiamo parlato dunque del premio, ma anche a cui abbiamo chiesto una proiezione per il futuro. Ma io prima l'ho preso con un po' di stupore, quasi di staccata, no? Poi ho capito che questo ridava senso alla nostra battaglia in un periodo così difficile, perché è il riconoscimento che mai dall'impero romano in poi avevamo avuto quasi tre generazioni di pace. È una cosa incredibile, no? Tutti questi monumenti ai caduti che abbiamo dappertutto, no? Questo senso che le unità nazionali si facevano soprattutto con la guerra, no? E non abbiamo, da tre generazioni i nostri ragazzi non sono più morti nei fronti europei, e questo è il grande senso dell'Europa. Adesso bisogna fare la seconda parte, che è la solidarietà, ecco. Presidente, 60 anni fa le nazioni erano 6, oggi sono 27 e l'allargamento continua. In questo nuovo schema, formidabile da un punto di vista storico, quello che sta accadendo in queste settimane ci dà gli strumenti perché tra 60 anni si possa davvero raccontare un completamento della trasformazione dell'Unione Europea? Secondo me è successo qualcosa di grosso, molto trascurato, che siamo entrati senza accorgercene nella cabina dell'Europa a più velocità, cioè la Tobin Tax l'ha approvato alcuni stati, altri no. Questo è fantastico, cioè i paesi che riescono a fare delle cose simili le fanno, quelli che non vogliono farle e non le fanno. E così la Gran Bretagna, che è stata finora un freno terribile negli ultimi anni, invece di frenare, dice: ragazzi, capisco, andate avanti voi, io non ci sto, ma voi andate avanti. Sono quelle svolte che sono percepite solo dopo, no? ma l'unanimità è stata negli ultimi anni il freno all'Europa, no? Perché con 27 paesi, mentre l'unanimità a 6 era spontanea, no? Ma con 27 paesi non si può più andare avanti con le stesse metodologie. Non si può più andare avanti dunque con le stesse metodologie, così Romano Prodi, lo avete sentito, entusiasta da una parte, ma entusiasta anche di questi eventi che causa la grande crisi che viviamo. In realtà restano sotto traccia, quindi la cosiddetta Tobin Tax, i cambiamenti che proprio intorno alla crisi emergono e vengono chiesti dalle popolazioni europee. Per quanto riguarda il premio Nobel per la pace, siamo a oltre appunto un secolo di conferimenti, vi ricordo così a titolo di curiosità, le Nazioni Unite l'hanno già vinto 7 volte in una classifica che vede di gran lunga in testa gli Stati Uniti d'America con 22 appunto premi, e con un italiano. Bisogna andare molto indietro nel tempo, era il 1907, era Ernesto Teodoro Moneta, allora presidente dell'Unione Lombarda per la Pace, un industriale, un uomo di grande successo che allora, proprio pochi anni prima della carneficina della prima guerra mondiale, chiedeva appunto l'unione dei popoli per un futuro di pace. Questo nella storia, ma l'attualità invece ci riporta a Bruxelles. Beda Romano, innanzitutto buon pomeriggio. Buongiorno. Allora Beda, come reagisce Bruxelles? Abbiamo detto un premio inatteso, come spesso accade per questo tipo di riconoscimenti, che arriva insomma in quello che è l'anno horribilis per molti versi dell'Unione Europea. Reazione a caldo. Ma credo che tutte le istituzioni hanno accolto con sorpresa e con una certa felicità, una certa soddisfazione, un certo orgoglio questo premio. Il presidente della Commissione, José Manuel Barroso, è sceso in sala stampa a un certo punto nel Palazzo Berlemont per fare una corta dichiarazione alla stampa, in cui ha spiegato che c'è grande orgoglio da parte di tutti, degli Stati membri, dell'istituzione e soprattutto dei 500 milioni di cittadini europei. La cosa curiosa naturalmente è che questo premio arriva in un momento difficilissimo per l'Unione Europea e non mi riferisco soltanto evidentemente alla crisi debitoria e ai forti rischi di disintegrazione dell'Unione Monetaria, mi riferisco anche alle difficoltà che ha l'intera Unione Europea ad affrontare la crisi di questi mesi e di questi anni. Quindi per molti versi questo premio credo vada considerato più che un riconoscimento per il passato, un incoraggiamento per il futuro. Credo che sia così che viene anche percepito da parte delle istituzioni europee. Direi che è una lettura quasi inevitabile, visto i tempi. Hai sentito con noi l'ex presidente della Commissione, Romano Prodi, dire: io vedo segnali positivi. E un segnale che lui sottolinea è quello recente della possibilità di muoversi implicitamente a più velocità. Lui cita la cosiddetta Tobin Tax. Insomma, ci sono segnali che emergono magari sotto traccia, lontano dalla prima linea degli avvenimenti, per chi come te è un osservatore dedicato dalla capitale europea di Bruxelles? Ma credo che le cose stiano cambiando e ci sia una progressiva integrazione dell'Unione Monetaria. Naturalmente la crisi comporta un'azione più veloce e in questo caso il processo decisionale europeo mostra evidenti difficoltà, ma proprio all'inizio della settimana ha tenuto la propria seduta inaugurale il Consiglio di amministrazione del Meccanismo Europeo di Stabilità, noto con l'acronimo inglese ESM. Ed è un organismo completamente nuovo, tralasciamo per un attimo la dotazione finanziaria che è elevata, ma la cosa interessante è che è un'istituzione della zona euro, non è un'istituzione dell'Unione Europea. Molto spesso crediamo che per esempio la Banca Centrale Europea sia un'istituzione dell'Unione Monetaria, in realtà no, la BCE è un'istituzione dell'Unione Europea, i 27 sono azionisti della banca. Invece l'ISM è la prima istituzione della zona euro ed è un'istituzione che in questo momento è un fondo monetario europeo, fondamentalmente è un'istituzione che dovrebbe aiutare i paesi in crisi, ma non possiamo escludere che nel futuro, più o meno prossimo, possa diventare o un'agenzia di gestione del debito pubblico o addirittura un futuro tesoro della zona euro. Siamo ancora lontano, evidentemente, ma ho l'impressione che il dibattito abbia preso velocità e lo vedremo anche la settimana prossima quando ci sarà un vertice europeo qui a Bruxelles. Grazie, grazie a Beda Romano, lo ricordo, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, inevitabile direi finale su queste note. Dunque, il premio Nobel per la pace, i premi insomma spesso lasciano il tempo che trovano, altrimenti non si spiegherebbe perché ancora a quasi 20 anni da quello conferito a Arafat, a Peres, a Rabin, per esempio, la questione palestinese non si è risolta, ma resta sicuramente un segno di una tappa, di una costruzione straordinaria che appunto riguarda 500 milioni di persone. Oggi 27 paesi, saranno 28 già dal prossimo anno con l'allargamento della Croazia. Direi che questo forse basta a dare il senso di questa grande storia. Grazie per essere stati all'ascolto. Aggiornamenti da GR24.